Le maschere per i capelli sono come le maschere per il viso e i trattamenti cosmetici in generale, vanno scelte in base ai propri capelli. Essa viene scelta in base al disturbo da migliorare e al tipo di capelli su cui andrà ad agire. La maschera per capelli secchi e sfibrati è una delle maschere più ricercate, in quanto spesso succede che i nostri capelli vengono sottoposti a stress da parte di piastre, fone e tinte e bisogna nutrirli e reidratarli. Prima di tutto bisogna capire che una maschera non è come un balsamo. La maschera ha bisogno di un certo tempo di posa ed ha un'azione molto più intensa rispetto a un balsamo per i capelli. È indispensabile soprattutto d'estate una maschera per capelli secchi e rovinati, in quanto l'acqua salata del mare, il sole, ma anche l'acqua della piscina, rovinano la struttura del capello. Lo scopo della maschera per capelli secchi è quella di nutrire e ristrutturare i capelli, per renderli visibilmente più forti e voluminosi. Di seguito troverete le migliori maschere per i capelli secchi. Top 5 della maschera per capelli secchi. Art Naturals maschera per capelli altamente condizionante all'olio di argan. Per una maschera particolare all'olio di argan che si prende cura dei capelli con il suo complesso di ingredienti a base naturale, Art Naturals maschera per capelli altamente condizionante all'olio di argan, è una delle migliori maschere per capelli secchi. Art Naturals oltre all'olio di argan, contiene olio di jojoba biologico, aloe vera e cheratina. Si prende cura dei capelli secchi, danneggiati a causa di vari fattori e ripara i capelli colorati, in modo da farli tornare a splendere di salute. La sua formula senza solfati e senza parabeni è adatta per tutti i tipi di capelli. Va applicata dopo lo shampoo e si lascia in posa per 10 minuti, per poi risciacquare abbondantemente. Se i tuoi capelli necessitano di cure e nutrimento profondo, è la maschera adatta. La profumazione è lieve e non appesantisce i capelli durante la piega. I capelli risulteranno più morbidi e lucenti. In più aiuta a far crescere i capelli e protegge dalla formazione di doppie punte. Pro. Contiene olio di jojoba biologico. Senza solfati e parabeni. Per tutti i tipi di capelli. Non appesantisce i capelli. Protegge dalla formazione di doppie punte. Contro. Contiene siliconi. L'Oreal Paris Botanicals Cartamo infusione di nutrimento maschera per capelli secchi. Per nutrire profondamente i capelli secchi e sfibrati hai bisogno di L'Oreal Paris Botanicals Cartamo infusione di nutrimento maschera per capelli secchi. Questa maschera è un'infusione di nutrimento dal profumo fresco e rilassante. L'Oreal Paris Botanicals si prende cura della realizzazione dei prodotti per capelli, per creare texture sensoriali e fragranze incantevoli. È un prodotto che rispetta la natura, in quanto è realizzato con materiale riciclato. La sua formula è senza parabeni, siliconi e senza coloranti. L'olio di cartami, cocco e soia, nutrono profondamente e ammorbidiscono la capigliatura. La maschera si applica prima dello shampoo su tutti i capelli e si avvolgono con un panno per essere lasciati in impacco per 15 minuti. In seguito si risciacqua e i capelli risulteranno morbidi al tatto e piacevolmente profumati. Se i tuoi capelli sono rovinati e vuoi farli ritornare a splendere, questa è una maschera per i capelli secchi che non delude. Pro. Nutre profondamente i capelli secchi e sfibrati. Fragranza molto piacevole. Senza parabeni, siliconi e coloranti. TG57430 Mask. Una maschera professionale per capelli secchi, che trovi nei saloni per parrucchieri è TG57430 Mask. La sua formula è ricca di ingredienti che nutrono la fibra capillare dall'interno e ripara i capelli danneggiati. Contiene proteine del grano, miele di acacia, vitamina E, acido lattico e acido adipico. Le proteine del grano rinforza e dona volume ai capelli rendendoli brillanti. Il miele idrata la fibra capillare, mentre la presenza di vitamina E ha un'azione antiossidante che impedisce la perdita di colore e lucentezza. Inoltre protegge da eventuali danni termici dovuti a fone piastre per capelli. I capelli risulteranno leggeri, morbidi e fluenti, brillando di luce propria. TG57430 Mask è la migliore maschera professionale per capelli secchi e danneggiati. È un ottimo prodotto e basta una piccola quantità per fare il suo lavoro, grazie alla sua consistenza. Pro. Maschera professionale. Nutre i capelli dall'interno. Ripara i capelli danneggiati. Rinforza e dona volume. Impedisce la perdita di colore e lucentezza. Contro. L'odore non sempre piace.